questa partita loro la giocano fuori casa, però sapevamo, ecco, di questa spensieratezza tattica da parte dell'allenatore Stramaccioni, quindi eravamo pronti, ecco, ma non ci ha trovato assolutamente impreparati. Però l'ho sentito con le mie orecchie, l'ho visto con le mie orecchie e ha fatto ironia sulla spensieratezza tattica dell'allenatore dell'Inter e dell'Inter. Tutti convocati di Carlo Genta. Allora, tutti convocati come sempre, 800240024, Franco Piantanei d'autore di questo programma, Filippo Reggi in regia. Nel giorno in cui Obama viene rieletto, Max Biaggi a 41 anni scende dalla sella e annuncia il ritiro, il papero torna al gol e c'è il fantasma di Guardiola a San Siro, ma mi sembra una gran bufala, almeno mia sensazione personale. Noi facciamo un paio di passi indietro e torniamo alla dichiarazione più divertente della settimana, eletta lunedì, questa. Visto che Vargas non è entrato nel Napoli, hai approfittato per fare una trattativa di mercato già lì al San Paolo e portartelo al Torino, perché ciò che piace molto al Torino, non so se Gian Piero, almeno che ti piace puoi confermarlo così. Ah, non te lo dice, non te lo dice. Sì, è carino, ragazzi. Sì. Allenatore del Torino, Gian Piero Ventura, buongiorno. Buongiorno a voi. Un bel player, un bel ragazzo. Vargas. Ti vogliono far parlare di mercato a tutti i costi anche dopo una partita, quindi sì. Poi a Torino qualsiasi parola viene detta, viene, ma certo, leggermente amplificata. Beh, comunque è come Borriello, no? Che si era definito bel player, eh? Sì, ma si era definito da solo, che è ancora peggio secondo me. Comunque, anche se è vero, per carità di Dio, però sì, vabbè. Al di là di questo si vuole sempre parlare di mercato, 12 mesi l'anno, già so. È lunghissimo il mercato, almeno quei due mesi in cui non c'è, io eviterei, ecco. Evitiamo. Allora, parliamo di mercato. No, sto scherzando, sì. Giuro. No, non c'è problema. No, intanto ha fatto venire il mal di cuore a Mazzarri, poveretto. No, adesso sta benissimo, stasera dirigerà il Napoli, però insomma con il suo Toro l'ha messo in difficoltà e in trasferta andate benissimo. Credo che abbiamo fatto una buona partita, è vero che abbiamo pareggiato al 90esimo su un errore di Aronica, però è altrettanto vero che nel computo della partita non avevamo concesso niente tranne un contropiede a 10 minuti dalla fine, dove abbiamo rischiato di prendere gol, poi avevamo concesso proprio praticamente veramente niente. Di solito il Napoli in casa, oltre a averle vinte tutte, oltre a essere poi abbastanza carico visto che vedeva la vetta dopo la sconfitta della Juventus, di solito crea un numero impressionante di palle gol, avevo visto alcune immagini, la Lazio l'ultima andata aveva preso 3 gol, il Milan aveva preso 2 gol, cioè vuol dire una squadra che crea moltissimo. Noi non abbiamo concesso assolutamente niente, anzi abbiamo avuto 3-4 palle noi per fare gol, quindi credo che il risultato sia assolutamente giusto, anche se è arrivato in maniera un po' impropria alla fine, allo scadere. Beh, impropria. Partita finisce quando arbitro fischia, anche il Real Madrid, sì, ieri si era segnato al 90esimo, ce ne sono state. Questo è vero, no, perché magari sai. Anche al City potevano dare il rigore al 90esimo, non gliel'hanno dato. Se ieri al posto dell'Ajax ci fosse stata la Juve, al posto del City, il Torino, il Napoli o un'altra squadra, altro che il metto ci voleva. Purtroppo insomma, le cose sono, il calcio è fatto di queste cose. Chi partecipa al gioco conosce le regole, quindi le deve tra virgolette accettare, quindi anche noi abbiamo avuto delle situazioni perlomeno bizzarre, per usare un eufemismo, però fa parte un po' del gioco. Sono d'accordo con lei. Cioè, poi se Marotta dice che l'Inter ha giocato in modo spensierato e Stramaccioni brucia la coda di paglia, sono un po' permalosi questi nuovi maghetti, non trova? Ma io qualche anno di più, obiettivamente, a volte ritengo Stramaccioni, tra l'altro, oltre, credo che non lo conoscevo, credo che sia un allenatore che ha delle idee, tra l'altro è anche una persona intelligente, quindi non conoscendolo ho avuto questa netta sensazione. Obiettivamente a volte, ecco, questa l'ho trovata un po' sopra le righe, nel senso che poteva essere evitato, perché sono sciocchezze. Appunto. Io credo che la cosa che conti è che ha fatto una partita importante e credo che abbia vinto meritatamente per quello che è avvenuto in campo, e questa deve essere la vera soddisfazione, non certamente, però ripeto, non voglio entrare in merito di mia competenza, però Senta, un'ultima cosa, il primo dicembre è giorno di festa, derby di Torino, Juve Toro, vede la sua dirimpettaia Juventus un po' in flessione in questo momento o è un calo fisiologico o non so come lo legge il momento della Juve? Ma io credo che il momento della Juve debba essere giudicato magari fra non tanto questa sera ma nelle prossime due partite, nel senso che qui stiamo parlando di un calo fisiologico ma nel momento in cui stiamo parlando di 49 risultati utili consecutivi, certo. Quindi è perlomeno bizzarro anche questo definirlo calo, però è evidente che una partita questa che ha avuto un peso sotto l'aspetto psicologico, perché avessero perso contro un'altra squadra il discorso poteva essere diverso. Perdere contro l'Inter una partita molto attesa che aveva poi il significato dell'avvicinamento quasi totale a parte dell'Inter, chiaro che sotto l'aspetto psicologico un po' possa aver inciso. Credo che in queste due partite, tre, ci sarà la risposta della Juventus e in base alla risposta potrebbe aver creato qualche problema alla sconfitta, come invece probabilmente può aver creato nuovi stimoli e quindi ripartire alla grande, perché credo che la Juventus in assoluto sia la squadra più competitiva del campionato. Sì. Ha visto come sono stato bravo? Non le ho neanche chiesto chi prende a gennaio. No, a gennaio non me lo può chiedere perché non lo so. Bisogna chiederlo al presidente, al direttore sportivo, non certamente a me. Io non so neanche se prendono qualcosa. Io le auguro magari non un bel player, ma un buon player. Io mi auguro qualcosa, poi quel che viene, viene. Grazie. No, grazie a voi, arrivederci. Buon lavoro. Giornata, grazie, arrivederci. Buon lavoro a Giampiero Ventura, allenatore del Toro. E va questo dolce spensierato, è spensierato in questo momento perché abbiamo avuto una settimana che dovremo incorniciare. Spensierato. No, direi che sono soddisfatto. Sono felice, questo basta a me. E va questo dolce spensierato. Li avrete riconosciuti, sono Marino, direttore generale dell'Atalanta, Livio Proli, presidente dell'Armani Jeans Milano, nostri ospiti ieri. 800240024, siete tutti convocati e se non chiamate mi arrabbio. Cristian dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i convocati presenti. Tutti convocati, sì. Migliaia, sì. Ascolti, la mia è una riflessione che volevo condividere con lei, che reputo una persona equilibrata e intelligente sul settore del calcio. Io ultimamente sto vedendo delle cose che non ritengo corrette ed etiche dal punto di vista dal mondo del giornalistico, nel senso, le faccio un esempio. Ho visto un'intervista di Baldini sul caso De Rossi, sì. E mi è sembrata una persona, cioè si è montato un caso su una cosa che non è mai stata detta. Adesso ci sono televisioni, giornali, radio che parlano di De Rossi va via, qua vuole essere ceduto. Sì. A quanto io ho visto, l'interpretazione di quello che ha detto Baldini è una cosa semplicissima. Essendo io un manager di una società, è giusto che io ascolti tutte le offerte che arrivino, ma possiamo benissimo sovrassedere come abbiamo fatto a sì, però luglio. Christian, però non facciamo Alice nel Paese delle Meraviglie. Io sono d'accordo con lei, ma basta guardare le dichiarazioni su cui stiamo giocando in questi giorni sulla spensieratezza, no? Ognuno le intende come ne ha voglia. Però se uno vuole blindare De Rossi, dice qualunque offerta arrivi, noi la rifiuteremo perché De Rossi è una bandiera. Stamattina è comparso anche uno striscione a Roma, giù le mani da Daniele De Rossi, eccetera, eccetera, eccetera. La mia sensazione, Christian, è che De Rossi possa, che quelle offerte possano davvero essere ascoltate e arriveranno di certo, non so se... Beh, Ibra ne ha parlato ieri, ha detto mi piacerebbe venisse a Parigi, lo vorrebbe Real Madrid, lo vuole mezza Europa, quella coi soldi, quindi in questo momento io non scommetterei sul fatto che De Rossi possa rimanere a Roma dopo gennaio, anzi scommetterei piuttosto sul contrario. Salvatore, Roma. Sì, buonasera. senti, io lo sto ascoltando da tre giorni. Sì. Noi ci siamo sentiti qualche volta, sono intervenuto. Sono un interista di Milano trasferito a Roma. E la sto ascoltando, a parte il fatto che le dico simpaticamente che secondo me lei è un po' gobolo, No. Sono un po' discoglioso, dica la verità. Come? Un po' discoglioso? Detto, gobbo che... io? Giuro di no. Giuro di no? Giuro. No, va bene. No, volevo dirle. Il problema si è sbagliato lei... anche lei, non ce n'è una che la dice giusta. Come dice? No, lei sa benissimo che sì. Non può esserci una normale dialettica tra interisti e juventini. Ma perché no? Ma perché no? Perché non può. Ma secondo me non può essere. Ma secondo me può essere, sì. Ma sì, me lo ricordo. Ma Prisco, Prisco era meraviglioso. Prisco era Salvatore. Prisco era l'ironia in persona. Prisco era l'ironia in persona. Quello era una dialettica normale, invece, secondo me. Quella che c'è adesso è una dialettica astiosa, che non è normale e potrebbe essere altrimenti. È una dialettica ironica, ma che, come dire, per noi chiudeva il mondo, no? Cioè, era la definizione dell'universo. Questa cosa continua in qualche maniera, cosa del genere. E quindi siamo su quel solco lì, su quella falsa riga lì. Quello che si può imputare a Stramaccioni, casomai, che secondo me è bravissimo, è che lui è romano ed è romanista. Cosa c'è? E quindi non ha quella il DNA dell'interista puro che usa nelle partite vinte e stravinte come quelle di domenica l'arte sublime dello sberlefo, quella che aveva Prisco. Sì, e quindi lui lo prende come Mourinho era portoghese, non era mica nato alla Bovisa. Secondo, sì, me, certo. secondo me, insomma, ha un po' la coda di paglia Stramaccioni, che è bravissimo, ha un po' la coda di paglia, l'ha dimostrato in questa occasione quando non era il caso, l'ha dimostrato in altri momenti. Stramaccioni certo non è Prisco, e a me, ripeto, Stramaccioni è anche molto molto simpatico, vi dico la verità, però questo è quello che penso. Abbiamo anche la voce di Alessio che attacca l'Inter ieri, poi andiamo avanti, mi scrivono dalla regia. Vabbè, abbiamo la voce di Alessio che attacca l'Inter, se ci mancava anche questa facciamola, sentiamola. Bisogna anche saper vincere. Nell'anno scorso devo pensare a questo punto che era un errore voluto, quello su Marchisio, steso, falciato da Castellazzi, e non è stato concesso nel rigore e nell'espulsione. Però è facile poi parlare sempre di arbitri che credo vanno difesi, e vanno difesi sempre, non soltanto quando si viene dato qualcosa a favore. Rimanendo all'Inter, devo pensare anche ultimamente il calcio di rigore andato al Catania, oppure il gol di Nagatomo in fuorigioco. Ecco, dobbiamo pensare al male, credo di no, quindi lasciamo stare gli arbitri, pensiamo che non sono sereni a mio avviso, perché si parla sempre durante tutta la settimana di polemiche, quindi lasciamoli lavorare e tutti ne traremo sicuramente dei benefici. Vabbè, queste le parole di Alessio, c'è puzza di dossier qui, cominciamo a snocciolare gli errori e a fare la conta degli errori a favore e contro. Facciamo un salto in Spagna, che è meglio, da Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Il Real salva la buccia al 90esimo, ma anche lì c'è aria di crisi, altro che spensieratezza. Beh, qua però aspetta, il nostro spensierato non lo è mai stato, quindi insomma non è che adesso così sono cambiate le cose. Sì. Ieri ovviamente lui ha subito detto che il gol annullato a Callejón era regolare, Poi la televisione ha dimostrato che non era regolare, però insomma restano le sue parole in conferenza stampa, no, che vanno in tutto il mondo. In realtà vabbè, quello è un errore, cioè ci ha azzeccato anche per fortuna, nel senso che si parla di pochi centimetri. Sì. Comunque vabbè. Ma sai, in Europa alla fine, ed è questo il bello della Champions League e del calcio europeo che seguo con molta più passione rispetto al campionato italiano, è che queste cose in fondo si annacquano. Dicevo prima a Ventura, se ieri sera al posto dell'Ajax ci fosse stata la Juventus al posto del City, una squadra italiana, vabbè, oggi bisognava scendere in trincea e non uscire più di lì. Altro che il metro, il bunker antiatomico ci voleva. Senti, mi sa che a Malaga lo Sheikh ha pagato gli stipendi. No, lo Sheikh non ha pagato. Non ha pagato? No. Allora mancano 10 milioni della stagione passata. Sì? E tutti gli stipendi di questo della nuova stagione. E questi giocano e passano il turno, vanno... comunque a giocare una signora partita, hanno una preparazione fisica pazzesca, perché corrono come dannati, e complimenti. Però anche una preparazione mentale, direi, c'è un quadro psicologico molto complesso che Pellegrini ha saputo gestire al meglio, perché poi è facile dire, ah vabbè, ma tanto il calciatore che gli frega, no, ha guadagnato tanto, non, se non prende lo stipendio un mese, due, no, non succede niente. Non è vero, non è così. Non è così. Non perché è così. Poi ci sono dei ragazzi, io non so quanto guadagna Portillo, però quanto guadagnerà? 200.000, 300.000 euro? No, questo vale per tutti. Guarda, gli americani ad esempio hanno una concezione molto precisa di questo. Tu non mi paghi, io non lavoro. Magari vengo, metto giù la borsa, però sto lì con le braccia incrociate. Quindi non, è un discorso sbagliato quello che... No, se si pensa così. Stanno facendo un vero miracolo, insomma. E quindi no, io sono molto contento, insomma. Diciamo, è la squadra simpatia, no? di questa Champions. Giocano bene, sono in pochi, vediamo quanto durano. Senti, molto rapidamente ti butto lì due cose e mi rispondi secco. Secondo me la storia di Guardiola al Milan è una bufala, punto primo. Punto secondo è una domanda: De Rossi verrà al Real Madrid a gennaio? No, De Rossi al Real Madrid no, perché non c'è bisogno. La bufala è una bufala finché Berlusconi non esce e dice che c'è un sacco di soldi da spendere per esatto, il Milan. Esatto, è proprio così. E quindi è per questo che io penso sia una bufala. Grazie Filippo, buon lavoro! Sì. Un abbraccio, ciao Filippo Maria Ricci. Dunque, come detto in apertura, ripeto, è un'alba molto diversa oggi per me. Niente sarà come prima, forza comunque, parole lacrimevoli di Max Biaggi, che ha annunciato il suo ritiro dalle corse a 41 anni dopo aver vinto il suo secondo mondiale in Superbike e dopo quattro titoli in 2,50, il grande rivale sempre battuto da Valentino Rossi. C'è chi mi scrive: ma se è una bufala quella di Guardiola, cosa è andato a fare suo fratello a Meazza, tra l'altro invitato dalla stessa dirigenza del Milan, scrive, domanda Andrea. Dicono si è andato a parlare, essendo anche procuratore, di Suarez, si è andato a parlare di questo giocatore, poi non so cosa, magari c'era bisogno di fare un po' di cacciara, di rumore, però sarei estremamente sorpreso nel caso in cui il Milan prendesse Guardiola, perché vorrebbe dire che Berlusconi ha deciso di tornare ad investire in maniera pesantissima sul calcio, oppure ha ceduto agli arabi e gli arabi vogliono Guardiola. Questo non lo so, però in queste condizioni il Milan gioca al ribasso, con Guardiola si giocherebbe al rialzissimo, direi. 800 24 00 24, siete convocati. Allora, Mancini ieri sera, dopo quel finale così concitato, c'era un rigore solare su Balotelli all'ultimo istante, invece l'arbitro ha fischiato la fine, non è stato concesso un gol valido, il City è quasi fuori dalla Champions League e Mancini si è arrabbiato. No, ma the referee and the line man were really poor. Yeah, penalty and the goal was goal. Absolutely. Allora, avete capito, no? L'arbitro è stato veramente povero questa sera, insieme a Guardalina meritavamo di vincere, il gol era valido. E poi c'è Ibrahimovic che ieri sera, non so, l'avete visto Ibra ieri sera? ieri sera ha giocato una partita incredibile facendo il Cruyff, cioè si è messo sulla tre quarti e ha mandato quattro volte quattro in gol i compagni di squadra, ma con assist pazzeschi. Si è divertito a giocare rifinitore. Ha parlato anche della sua. A qualcuno lo faccio, non è un problema, però ultimo non volevo toccare perché guardavo pallone, ma successo, dopo era troppo tardi per fermarmi, perché sono arrivato in velocità e però non era mio, was not my meaning to hit him. Quindi sarà stato anche un modo per farsi perdonare l'espulsione stupida dell'altro giorno con il Saint-Étienne, di cui avete sentito, ha parlato Ibra, se voglio far male a qualcuno lo faccio, solita dichiarazione da Boro, no, ma ci sta Ibrahimovic, altro personaggio che a me è estremamente simpatico. Allora, c'era il fratello di Guardiola ieri a Milano insieme a Destiarte, altro collaboratore di Guardiola, è stato a San Siro, c'era anche curiosamente Berlusconi, Gagliani dice di non averlo incontrato, ovviamente lo hanno riferito ad Allegri. La presenza oggi del fratello di Guardiola a questo punto le fa qualche effetto? No, io fortunatamente c'ho una sorella, quindi. Quindi Allegri ha risposto così, con grande ironia, forse con un po' di spensieratezza. Luca, provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono un po' emozionato. Volevo parlare anch'io di basket, io sono un tifoso della Tudor. Sì. E volevo dire cosa ne pensava lei della bellissima prestazione che ha fatto la squadra a Venezia domenica e invitare tutti i tifosi di basket della Tudor domenica al Palarossini, perché c'è bisogno di grande sostegno per questa squadra. Sì, che sta andando bene, che ha un signor allenatore che conosciamo bene e che non mi sorprende sia partita in questo campionato, quindi riusciamo a vincere fuori casa, ma in casa ancora non riusciamo bene a esprimere quello potenziale. È un po' come il Torino, eh? È un po' come il Torino e sono anche un tifoso del Torino. E quindi vede, soffre in casa e gioisce in trasferta. Toccherà fare dei viaggi, Luca. Sì, mi dica, non ho capito. Toccherà che si metta un po' in viaggio. Sì, per andare a vedere soddisfazioni in trasferta. Penso anch'io. Grazie, Luca. Alla prossima. Grazie a lei. Grazie. Francesco da Napoli. Buonasera, sono Francesco. Complimenti per la trasmissione e grazie per avermi convocato. Tutti convocati, sempre. Genta, il mio pensiero, che poi era una domanda su Guardiola, era questo: ma un allenatore che ha avuto il coraggio di far vendere Ronaldinho, non far giocare Ibrahimovic, si creerebbe tanti problemi a prendere una squadra che non ha grossi campioni? Uno che ha fatto giocare gente come Iniesta, che non veniva da grossi squadre, cioè uno che ha fatto il meglio del meglio con quello che gli dava la struttura. Quindi non credo sia un problema di giocatori, forse di stipendio, non so quanto guadagnava Guardiola. Non credo sia un problema di stipendio. Il fatto è che Guardiola penso che quando tornerà ad allenare lo farà con una grande squadra, perché non penso abbia voglia di mettersi a ricostruire con pochi denari e con quello che passa il convento. Quindi se viene Guardiola vuol dire che arriveranno grandi giocatori, perché non esiste che un allenatore come Guardiola decida di venire in questo Milan. Se Guardiola viene vuol dire che arrivano il grano e i giocatori, e io non, cioè, tutto indica che Berlusconi non abbia intenzione di prendere questa direzione. A proposito di Ronaldinho e a proposito di denari, sentite questa. Allora, Adriano ha risolto il contratto col Flamengo, ha perso la voglia di giocare, non gioca più, non so se quest'anno oppure mai più. Mentre Ronaldinho continua la sua luna di miele con l'Atletico Mineiro, che potrebbe nel 2013 triplicargli, beato lui, lo stipendio. Adesso prende 115.000 euro al mese, potrebbero triplicarglielo, quindi diventerebbero 350.000 euro al mese per il fuoriclasse Ronaldinho. Davide Ferrara. Sì, salve signor Genta. Buongiorno. Evviva Ronaldinho ed evviva il procuratore di Ronaldinho, allora. No, io le volevo fare suo fratello De Assis. Sì, dica. Secondo lei, se Alonso avesse guidato una Red Bull e Vettel una Ferrari a inizio stagione, adesso che siamo al 7 di novembre, il campionato secondo lei sarebbe già bello che è finito? Sì. Anche secondo me. Ma io no, credo semplicemente anche... perché l'avrebbe chiuso nella prima parte, Davide. Nella prima parte... Nella prima parte Alonso ha fatto i miracoli con una macchina che non andava e poi c'è stato un momento in cui effettivamente Ferrari e Red Bull in estate erano molto vicine come, come prestazioni, adesso la Ferrari deve attaccare con una macchina che mi sembra inferiore. Non si discute, almeno dal mio punto di vista, il fatto che Alonso sia il più forte pilota del mondo. Assolutamente, assolutamente. E io sono convinto che anche Raikkonen, se fosse sulla macchina di Vettel, il campionato sarebbe bello che finito. Non so, questo non lo so, questo non glielo so dire. È chiaro che la Red Bull. No, allora è chiaro che la Red Bull è una macchina strepitosa, ma è chiaro altrettanto che Vettel non è l'ultimo arrivato, perché no, è un signor pilota. Ha dimostrato anche l'anno scorso di essere bravo. Però secondo me Raikkonen, Alonso e non so Schumacher, perché Schumacher purtroppo adesso non esageriamo, Schumacher meno male che si ritira, perché è stato molto triste questo suo remake, quindi non mi sembra più un, purtroppo è un pilota competitivo, ma non, insomma, può rimanere legati ai ricordi. Poi sono giochini questi, anche Hamilton magari su quella macchina. Hamilton è un altro signor pilota che vale secondo me più o meno quanto Vettel o certamente almeno quanto Raikkonen. Questo è un giochetto. La cosa su cui non ho dubbi è che Alonso renderà la vita durissima a Vettel fino all'ultimo metro, di questo sono certo. È un campionato bellissimo, comunque il più bello che ricordi negli ultimi anni. Pietro Milano, buongiorno. Sì, buongiorno signor Genta, volevo farle una domanda. Anche secondo lei il signor Tagliavento, dopo le mediocri prestazioni nelle partite da lui arbitrate negli ultimi anni, quelle importanti, non andrebbe comunque ridimensionato e relegato a arbitrare partite di categorie inferiori? Questa è la prima domanda. La seconda cosa invece era una considerazione. Secondo lei Tagliavento è uno degli arbitri peggiori che abbiamo, ma purtroppo in Italia gli arbitri peggiori vengono anche premiati, viene considerato uno degli arbitri migliori, come lo era De Santis ai tempi di Moggi, che era un arbitro internazionale, doveva fare i mondiali. Quindi lei vuole sottintendere che Tagliavento sia una specie di sicario prezzolato da qualcuno? Quantomeno è incapace, è un arbitro che ha poco a fingere di avere tanta personalità, in realtà la sua personalità la mette veramente in maniera sbagliata e rovina l'immagine della classe arbitrale italiana. Sì, noi però siamo abituati ad avere Pietro, però insieme a insieme mi perdoni, ma sì, ma certamente era anche un calcio più facile da arbitrare, al di là della personalità, perché arbitrare una partita di 30 anni fa era una cosa estremamente più semplice, perché gli spazi erano maggiori, perché era un altro sport, era semplicemente un altro sport, la differenza è quella che c'è tra una bicicletta e una moto da corsa, insomma. Poi se vuole mandare Tagliavento in Serie C, con lui ci dovrebbe andare anche il guardaline, che mi sembra che sia quello che ha fatto gli errori peggiori, no, l'altra sera in quella partita. Please welcome the President of the United States of America. He then greeted Hall of Famer Stan Musial, from whom he received the baseball he threw out for the first pitch. A perfect strike from the President to the current star of St. Louis, Albert Pujols. We take care of our own. Where we got? Three right here? Yeah. All right. You know I shoot under pressure. I know that. You handle pressure well. Okay, there's your first letter. That's your P. I got P. Hello, everybody. Hello, Blackhawks fans. And along the way, they helped Chicago become a hockey town again. After this team won the Stanley Cup, 2 million people lined Michigan Avenue to see the victory parade go by. Come Radio 24 facendo un grande lavoro vi ha raccontato tutta la notte, Obama è stato rieletto e il futuro sarà migliore, il meglio deve ancora avvenire. Invece di Bruce Springsteen potevamo mettere Ligabue, ma è più bello così naturalmente. Così come è bello trovare da New York Simone Sandri. Ciao Simone, come stai? Molto bene, buon pomeriggio Carlo. Problemi con l'uragano? Beh, parecchi. Io sono stato 5 giorni senza elettricità, gas e acqua calda, per cui sì, adesso, direi che qualche problema c'è stato. Però c'è tutto sistemato adesso in New York più o meno, no? Diciamo che a Manhattan c'è tutto sistemato, nei quartieri periferici la situazione è ancora parecchio grave, c'è ancora tanta gente senza energia elettrica e adesso aspettiamo una tempesta di neve per questo pomeriggio, per cui quando piove grandina si dice, in questo caso quando c'è un uragano poi nevica, per cui la situazione è ancora abbastanza tragica. Come hai vissuto la notte elettorale? Beh, sinceramente speravo in un contesto un po' diverso, perché se consideriamo che sono stati spesi 2 miliardi di dollari per una campagna elettorale veramente dove si lanciava fango a vicenda, e siamo tornati esattamente nel punto dove siamo partiti, con Obama presidente, una super maggioranza repubblicana alla Camera, una risicata maggioranza democratica al Senato, e purtroppo ciò significa che ci saranno almeno altri 2 anni di status quo, perché sembra che nessuno voglia fare compromessi, l'America è divisa in due, per cui praticamente dopo tutto questo casino, dopo tutta questa campagna elettorale costosissima, anche con colpi bassi, siamo ritrovati esattamente allo stesso punto di prima, per cui non sei molto fiducioso. Magari una maggioranza democratica alla Camera, oppure una vittoria di Romney con la maggioranza repubblicana per vedere una maggiore stabilità. Invece ho paura che ci sarà ancora uno status quo incredibile, cioè ciò ovviamente non porterà nulla di positivo nei mercati, nell'economia, e vedremo. Speriamo che magari per il fatto che tutti possano magari capire per senso anche civico che bisogna cominciare a fare compromessi, magari le cose possono cambiare. Ho i miei dubbi, sinceramente. Simone, dopo la è notizia certa che, attendendo i risultati, Obama abbia guardato i suoi Chicago Bulls battere Orlando 99-93 e poi abbia giocato a basket con Scottie Pippen, tanto per ingannare la tensione. È così? Sì, è molto curiosa la cosa. Innanzitutto sia Obama che Romney hanno deciso di entrare a piedi uniti nel mondo sportivo il lunedì sera, perché sono andati entrambi, sono stati ospiti del Monday Night di football americano, anche in maniera molto simpatica e scherzosa, hanno fatto battute sulla loro passione sportiva, anche ovviamente Obama ha parlato anche del suo talento cestistico, e poi il martedì, prima dell'inizio vero dello spoglio delle carte elettorali, Obama ha giocato a basket con Scottie Pippen ed è stata una sorta di cabala per lui vincente, perché è una tradizione per lui giocare a basket il giorno delle elezioni, tranne non è successo nel 2010, quando c'è stata la grande l'ondata repubblicana che ha spazzato via la maggioranza democratica alla Camera. E da lì Obama ha pensato bene di tornare alle vecchie abitudini e si è messo a giocare a basket con Scottie Pippen, e Obama ha pure, stando anche a quello che dicono, ha pure giocato abbastanza bene, ha fatto i suoi soliti tiri da perimetro e poi ha festeggiato ovviamente con Scottie Pippen fumando un sigarone. Mi viene da ridere, perché noi magari per ingannare l'attesa, quando abbiamo voglia di giocare a basket facciamo 4 telefonate, no? Vediamo se c'è qualche amico che vuole fare 3-3, lui gioca con Scottie Pippen, ma d'altra parte lui è Mr. President, Sì, con Scottie Pippen. E poi non dimentichiamoci che nell'amministrazione di Obama c'è un certo Ernie Duncan, che è un ex giocatore di basket a Duke, ha giocato anche in Australia di professionista ed è lui che spesso gli organizza queste partite e come dici tu, quando noi magari organizziamo delle partite chiediamo ai nostri amici di portare i migliori giocatori che conoscono. Ernie Duncan ne conosce parecchi giocatori forti e tutti hanno voglia ovviamente di giocare col presidente, per cui quando vuole fare due tiri trova sempre, non si sa come mai, ma trova sempre dei personaggi di primissimo piano con cui giocare. Beh, comunque anche tu sei molto amico di Steve Nash, ogni tanto giocate a calcio insieme. Sì, questo lo possiamo dire. Ha giocato anche con Obama, mi ha raccontato questa storia molto simpatica nella quale Obama, mentre facevano due tiri a canestro, venne chiamato dal suo segretario per una telefonata urgente e disse ai ragazzi con cui giocava, dice, vabbè, adesso devo andare, però aspettate. E si è messo a tirare da quasi metà campo, ha fatto canestro e poi se n'è andato. Una cosa di grandissimo carisma che ha lasciato un po' tutti a bocca aperta, mi ha raccontato. E cosa ti racconta Nash da Los Angeles? Che qui le cose stanno andando paradossalmente meglio di quello che sembra guardando i risultati, perché sembra che tutti stiano remando dalla stessa parte. Questo a prescindere dalle cose che mi racconta Nash, proprio la cosa che traspare dello spogliatoio. Dwight Howard sta entrando negli schemi, ci vuole un po', perché il concetto è bisogna avere pazienza, perché durante la pre-season praticamente Brown ha lavorato con un Kobe sempre mezzo un po' acciaccato, con Howard che tornava dall'operazione, per cui ci vuole un po'. Il problema, l'unico vero campanello d'allarme, è l'aspetto difensivo. Non si aspettavano di essere un po' così indietro da un punto di vista difensivo, mentre in attacco sapevano che i problemi c'erano ed erano convinti che sarebbe stato soltanto una questione di tempo. Se vuoi la mia personalissima opinione, io sono stato a Los Angeles per una settimana. Sì. Sinceramente, a sprazzi questa squadra è assolutamente spaziale, assolutamente indifendibile. Quindi bisogna solo allungare un po' i momenti in cui si gioca in un certo modo. Questa Princeton offense che tanto piace a Coach Brown non è proprio il massimo per Steve Nash, forse certo, neanche per Kobe Bryant, però secondo un po' tutti darà risultati quando conta, cioè durante i playoff. Vedremo. Secondo me cambiano allenatore e poi vediamo che Steve Nash, vedremo Steve Nash. Cambiano allenatore e prendono Mike D'Antoni, se anche tu del partito, quelli che dicono dovrebbero cambiare radicalmente visione di gioco, e prendere Mike D'Antoni, che è ovviamente libero, e praticamente fare felice il giocatore e cambiare completamente il modo di giocare. Io ho questa sensazione. Avremo modo di parlarne, caro Simone. Tanto ti abbraccio, grazie. Grazie, ciao Carlo. Grazie Simone Sandri da New York. Chiudiamo invece a Milano con Giovanni, ultimo convocato di oggi. Buongiorno. Volevo... Ci siamo sentiti l'ultima volta in merito a Mimmo Criscito, sulla convocazione nazionale, non so se si ricorda. Sulla fiducia, sul post-derby. Io le parlo già del pre-derby di Genova. Sì. Biglietto in mano, Gradinata Nord, eccetera, eccetera. Tutti parlano già di una bella X scritta e prescritta. Perché fa comodo un po' a tutti quanti. Guerre tra poveri non è che facciano bene al mondo. Non vorrei mai che venisse fuori un Allenius tanto bistrattato da Sky nell'ultima partita, che magari fa un Boselli di turno e all'ultimo momento la mette per così dire, e venisse fuori poi magari un procuratore di turno o chissà altro dicendo che tutto questo era solo, non quindi erano solo voci di paese, ma Giovanni, stiamo facendo della fantascienza calcistica, stiamo facendo delle allusioni? No, perché è successo sulle fantallusioni che hanno messo, appunto, come le dicevo, all'epoca di Criscito, che è stato messo in croce, perché francamente quel povero ragazzo, essendo andato all'estero, poi soprattutto non ha avuto modo di difendersi. È vero, non ha avuto modo di difendersi, è stato ingiustificatamente lasciato fuori dagli europei, e poi il resto mi pare storia chiusa o quasi. Ci salutiamo per ritrovarci domani alle 2. Grazie a Franco Piantanida in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Ciao a tutti. Ma se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo.